1, 2, 3, trova, prova, CQ canale 10, CQ canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Nataliscu, come va? Tutto bene? Ça va, bonsoir Jean-Franc. Allora, che si dice, sei in giro a prenderti il sole? Sono a casa purtroppo, altro che sole. E anche perché ne faccio nell'aria, quindi. Vabbè, gente mala. Mi Antonio, mi. Ciao Antu, buonasera. Buonasera anche a voi. Ah, Gianfra, buonasera. Gianfra, lo senti Antonio? Torna. Vado a parlare e il microfono se ne scappa. Cos'è? Una anghita? Mi fa parlare col muro, perché cambia canale da solo. Non ho capito il perché, se c'è un contratto o meno. Vediamo un po'. E allora tu, piove? A quanto pare. Infatti gli ho detto a Natalino, esci, esci, che ti fa un po' di domacconi. A mangiare ciocca, a mangiare lumache. Aspetta un attimo, stazionare ancora non è, vuol dire che non è scesa bene l'aria. Vuol dire di no. No, io sono a zero qua. Vabbè, ma qua quando si riempie, dove c'è la bobina lì, le cose già salgono. È normale. Già, ma la te è aumentato il sonno? Aspetta che non ci vedo, vai. Vuoi te le prova? Sì, mi sa di sì. Ma dove sei? Sempre stazione 2? Sì, stazione 2. Stazione 2, sempre pompando, sempre pompando. Dai che ce ne serve, che se non lo riamenta. No, normale. No, dicevo, sempre stazione 2, pompando idrocarburi. Ma anche benzina produci? No, non ve ne è benzina, no, che no. Mannaggia. Così, sta piovendo forte qua. Porca la miseria, non so dove ho messo un saldatore a gas, di quelli pure buoni. C'era un saldatore e mo non acciappo più. No, sei dunque le botte un saldatore. Per forza c'è un casotto qua che non te ne dico niente. Tipo cavi, cavetti, roba da fare, roba. Uff. Che rottura. Ma adesso smetto tutto in un sacco e ce lo butto tutto al gettito. Tanto, cosa ne fai? Appunto. Tutte queste cose col microfono, qualcosa. Ma chi ne comprende più nulla? Tutte dentro, cosa quando passavo lui con l'autocarro. È un bel peso, Che cosa? Quando ci butti via 4 HF, tutto un coso di portatile enorme, anche il computer, tanto cosa ne fai? Via tutto il gruppo di alimentazione, anche la batteria, tutto, che liberiamo un po' qua. Ah, io passo io e carico giù tutto. Quasi, tanto. Tanto la cerchi la cosa e non la trovi. Quindi tanto vale. Non ha smesso, io devo uscire fuori a cercare questo impiasto. Se me prendo un accidente, porca miseria. Mi sono accorto adesso, chissà dove cavolo è lui ridendosi. Sono sempre con le cose, pure io un po' di volte mi pongo a sticcare cose in casa, non ne comprendo nulla, e capita un po' a tutti. Perché se vogliamo fare tante cose, e poi una te la lascia domani, l'altra non c'è il pezzo, l'altra non c'è questo, non c'è quello, e accumuli, mentre invece a fare una cosa alla volta. Guarda Natalino deve mettere l'antenna finché il tempo non è come dice lui, non emette. Devo fare tutto da fuori e te credo che non emetto. Non sono comodo piazzandola io l'antenna lì. E cosa stai cercando, Gianfra? Un saldatore. Un eccellente saldatore della Dremer che ho usato qualche settimana fa e non so dove diavolo ce l'ho messo, ma te lo immagini. E questo è anche il vizio di comprare tanta roba, no? Adesso c'ho ancora. Avevo preso credo una decina di antenne di portatile, ne avrò utilizzato 4, tutte le altre sono buttate da una parte. Chi mi comprende, questa ce la butto, ecco, anche la camera, questa ce la butto di sicuro, mi ha rotto le scatole. Sì, buttiamo via un po' di roba, se no qua non se ne capisce niente. Ma io ne avevo due di saldatori, una era una stazione saldata e l'ho regalata a un amico, adesso ne ho solo uno per il sicuro. E adesso saldi col naso? No, saldo con quello, uno mi è rimasto, uno l'ho regalato a un amico, una stazione saldante era, e uno normale mi è rimasto. Non so, ma sai, con queste saldature di adesso che sono senza piombo, ci sono saldature un pochettino più potenti, se no sfasci tutto quello che c'è. E così, ma Antonio non c'ha problemi a attaccare il cannello, vero Antonio? Fai tutte le saldature che vuoi, anche quelle dure. Ma io già saldo bene con quello che ho. Mi ho comprato un altro rotolo di stagno e così ne ho due, uno fine ne ho, e uno un po' più grossetto, e vanno bene. Bravo Natalia, quasi quasi adesso non ne faccio più saldature, ma le faccio fare a te, quelle fine mi, quanto un cappello con gli SMD. Ehi, facciamo così. Quanto mi dai a saldatura? Però dopo controllo che la roba funzioni, Natali, quello che vuoi, però dopo deve funzionare. E allora, senza funzionare. Quindi non usi neanche occhiali. No, gli occhiali li devo usare per forza, se no non vido. No, io ti volevo far saldare a occhi chiusi, con le mani legate e col saldatore alimentato a batteria, di quello però da orologio. Ah, così non ci riesco, gatta, tu sei troppo esigente. Ma è l'esame base, capito? Quindi inizia a saldare certe piastre. Oh mia, chissà dove è finito. Sapere che è caduto, è andato. Aspetta che guardo fuori, che mi sa che ha un attimino smesso, sta gocciolando lo stesso, che guardo dietro, perché sennò è all'acqua. Se è all'acqua sono fregato. Infatti, vai a vedere. Avete chiamato? Gianfranco già ti ha chiamato e tu che ti hai rispostato, Antu? Purtroppo lì io qua mi sposto, faccio, non è che lo faccio per male, guarda. Già lo so, sei tu che hai chiesto, io che ti ho risposto. Sì, no, mi sono spostato un attimino. Già ce ne siamo accorti. Gianfranco è andato a cercare il saldatore, che dice che ha smesso un po'. Io adesso più in là, me lo prendo pure io un saldatorino, qualche cosa un po' più. Io funziona il mio, ma come se andasse pure vecchio. Io ho un altro che gli devo pulire la cosa, la. Voglio provare a pulire la punta per vedere se funziona meglio. Adesso un giorno lo porto qua e gli passo la pietra della mola da banco, che quello gli fa la mano di Dio, li fa. E sai quanto salta bene dopo una salita? Già lo credo. qualche giorno vengo e mi ha rotto la risolda. Non so se è per arrotare, no? E se c'è la pietra arrotta, sì. Perché allora quello lì è nato con due pietre, è nato, però era, ce n'era una di una maniera, una dell'altra, non so se una parrotata, capito? No, originalmente era con due pietre quella. Sì, sono andata lì, quindi non so se chissà è per la ruota. Quella già è bello averla, almeno ti affidi i coltelli. Cioè una c'è la spatola e l'altra c'è la pietra, però quella originariamente, originale, è nata con due pietre, capito? E io ho capito, una gli ha messo la spatola al posto della pietra, là. Sì, e una c'è la pietra, ma lo sai, io gliela passo poco cazzo, altro giorno mi ha salvato, che è una cosa micidiale, gliel'ho passata leggera leggera su quella cosa in rame. Cioè, la fatta pulita, pulita, poi vai a saldare, mo che attaccami, mi ho fatto il coso dell'antenna, domani che si è caccato più. No, io quando è caldo gli passo la forbice, li passo e si pulisce bene. No, no, ero io, ma mi è scattato di nuovo il canale. E l'ho trovato. Ovviamente si stava facendo il bagno, però già una passata d'aria compressa. E ho visto che funziona. Quando la roba è buona, adesso sì, no, non so se ne fanno. E cosa ti volevo dire? Natalì, non è che c'hai, anche anzi soprattutto guasti, microfoni guasti, che mi serve il cordone, no? Quello spiralizzato. Se qualcuno ce l'ha, dice quanto le vuole, e lo sto comprando subito, anche rotto, anche solo il cavo. Ma lo sai quanti ne avevo? Li ho tutti dati a Franco, sia i cavi che i microfoni, tutti quelli aperti, messi male, qualcuno nuovo ne ho dato anche. Perché ho finito, adesso utilizzo l'ultimo che mi è rimasto di questi cavi che avevo preso fuori, perché qua non fa neanche avvicinati, e così ne ripristino un altro di questi microfoni. E così, fuori sta piovendo e se ancora non l'avete capito. Natalì, voi prendete il caffè al bar, però a quello lontano, a quello del monte. Oh, c'ho la macchinetta qua, me l'ho preso poc'anzi. Altro che mare. Anch'io ce l'ho, però è quella noleggio, che fa anche il cappuccino, ma me l'ha consigliata Marco. L'ho comprata, cioè comprata la macchina gratis, devi comprare un tot di cialde, ed è veramente micidiale, è meglio di qua dal bar, fa un caffè che è splendido. Io prendo sempre quello del caffeinato, perché anche se costa di più, però è meno dannoso, diciamo, cioè si fa meno agitare, perché è meglio starsi calmi, non so cosa succede. Va benissimo Natalì, veramente bene, fa un cappuccino che è tutto schiuma. Beh, è registrato. Sì, anch'io ce l'ho che fa il cappuccino e tutto. Qual è, di che marca è quella macchina che c'hai tu, Gianfra? La pazza. C'è stato, volevo entrare. Buonasera a tutti. Buonasera a lui. E allora, che si dice? Ah, è lì. Non ti ho riconosciuto, la verità. Non mi avevi riconosciuto? Non ti ho riconosciuto, chi sei? Gianni Doppio Russo. Oh, mamma mia, ma cosa stai utilizzando già? È una stazione base. Cavolo, è diverso la timbrica. Ma male va, perché? No, non va male, è più realistica di come ti sento sempre. Infatti finalmente sta uscendo bene. Una volta che sta uscendo presente la modulazione, che non è tutta capottata, amplificata e chi più ne ha più ne metta. Adesso sei tu già. Ma io esco sempre bene. Questo lo dici tu. No, lo dicono tutti, non io. No, no, a pace scendi bene. Caro Gianni, non quando sei tutto amplificato con l'eco, questo e quell'altro. Aspetta. Oh, ma mi hanno chiamato e vi devo lasciare. Ci sentiamo dopo. Cappa, ciao Gianfra. Ciao Gianfra, ci sentiamo. No, sta uscendo meglio così, Antu, Gianni. È più realistico, cioè, perché sono sempre abituato a sentirlo diversamente. Il segnale sarà diverso perché sto uscendo con 2 watt adesso. No, non è questione di segnale, il segnale non conta, conta la radio. Questa è una radio è tranquilla da salotto, invece quando usi quei microfonacci che hai, quelli tutti amplificati, si collego, chi più ne ha più ne metta, allora non sei più tu, è troppo forte la modulazione molte volte, capito? Invece questa è salottiera, bella presente. Vai Gianni, vai, pompa, pompa, è quello di ieri, buonasera a tutti, metti tutto dentro il cassetto. Vai tu, cuomane, che esci sempre con la voce amplificata, esci. Allora, devo stare a fare salotto, come dice Gianfranco, pompa, pompa. Gaba, gaba. Pompa Gianni, metti quello di ieri. Fai sentire la tua voce mascola, che questa è troppo bassa. Guarda adesso se va bene, va bene, va bene. Apposta lo fanno. Accomandovi buon buffate di Natale, inutile che si manchi via a tirare le longhe, va a ragione il Claudio. Ah cosa, per fare 2 chiacchiere qua in città devi mettere il microfono con l'eco tutto amplificato con come quel cuomane di Claudio che sempre che mi fa sordo. Cuomane sei tu, sei capito quello bene. La radio o ce l'hai o non ce l'hai, se ce l'hai bisogna farle sentire, capito? Chi diventa sordo ci mette le cuffie, vero tu? Pure io, pompo pure io, gava gava. Boppa, boppa, risciugati. Abbiamo un prendito un po' vivo, aspetta. Ah, ci ha attaccato questo perché li devo far girare, dai, l'altro giorno ha attaccato gli altri, gli faccio girare questo, fare questo. Questo è il link che sei visto. Va bene già, più bassa di quella che piace a me, ma comunque già sei presente. E questa esce con 2 watt, è stata abbassata apposta per pilotarla, capirla. Già va bene già, tutto regolare, tutto capo dell'osmetro. Avanti Anto, riprendi tu, che sto mettendo a posto qua una cosa, già ci ho visto seguendo comunque. La pianina poco mai. Cuocuomane, non sono io. Forse cuocuomane, hai capito, anche per in vela. Ah, queste sono parole di processo. Claudio. Sentito lei cosa mi ha detto, Antu? Antu, ci fa vedere durante il comacco BRM, mi decidi di... Quando sei lì al lavoro, minchia che è un segnale allucinante. Dai, fatemi finire qua, poi già entro a salutarvi, vai. Cuomane che non siete altri. Vai Gianni. Gianni. Dai, ciao Claudio, dai, buona continuazione, siamo qua. Quando vuoi entra. Gava gava, avanti Natalissimo. Vuole farmi pompare per forza questo Claudio. Esci che pompo, esci, aspetta un attimo. Come ci arrivo già? Fumata delle varie. Pompando, stai no. Un cuomo, raga. Che la non si goccia. Perché non tratti a valvole non succede niente. Quando tratti la valvole, allora lì che sono dolori, le luci, la luce costa davvero. finché tratti roba così, robetta così, non succede niente. E beh, quando pompo bene esco? Sì, sì. Ah, sei quanto giorni qua? 9-10, 9-15. Più o meno, dai. Da te quanto sono, anzu io? 9-15. Sto facendo con 2 vacche, qua mi segna 2 vacche. 9-15. E io quando ti arrivo, Antu? Più o meno sei uguale. E adesso l'ho messo a 5 vacche. Guarda a vedere se va meglio o se è uguale. No, 9-20, la 5 vacche. Basso, da dai, cosa? Ok, dai, io chiudo, ci sentiamo dopo. Ma ho sentito qualcuno solo. Allora, venire a parte. Sono spagnolini. Attento, mio hermano della Spagna, della Scusia, isola della Sardina, dell'Ante. E loro non ci sentono, invece. Noi sentiamo a loro e loro non sentono. E io fanno finta di non sentirsi. No, ma può darsi che la propaganda la si è aperta solo per lui e loro non ci sentono. Succede a volte. Cata, oggi sono tutto a dolori. Dove mi hanno operato, che mi hanno entrato quei tubi lunghi, e mi hanno messo qua 4 bugnaradi. Cata, oggi mi batte male, sono tutto il giorno che non mi sento bene. Natali, tu sei la mente di oggi, io sono tutti i giorni così, mi alzo come un uncino e me ne vado a letto senza dolori alle mani, ai piedi, alle dita delle mani, c'ho artrosi, una grave artrosi, quelle sono brutte, lo stesso. Ma dove mi hanno operato mi fa male, deve essere come ha girato il tempo. La mia addirittura è con calcificazione delle ossa. E come quella di zia Iole, mia zia ce l'ha così, che ha le mani tutte storte, poveraccia. No, quella è quella deformata. Sì, e lì ce l'ha, anche così ce l'ha. Che l'artrosi deformata è quella calcificata, quella che ti calcifica proprio diciamo dove ci sono le aggiunture delle ossa, là, dove dovrebbe muoversi, a volte resta bloccata. È brutta è quella. Oh, mamma mia. Oh Gesù, come ti manico tu questi 4 bugnaradi mica domani operato? Cata, lì mi fa male, in tutti i punti. Sono preoccupato che non si senta l'eco. Ma cosa preoccupato, mamma mia? Già sei sentito poco fa. Perché l'ho alzato. Alzinoso. Ecco. A voi. Natalino! Sì. Già ce l'avevo anch'io, io me l'ho venduto quello che faceva l'eco. Cata, quello pompava un bel il baracchino, era bello. Purtroppo me l'ho venduto e c'ho solo questo e l'altro, non ne ho altri. Tanto cosa ritieni a fare? C'aveva un frequenzimetro bello grande che... Questo c'è il frequenzimetro, a fianco c'è il canale. Questa qui è la stazione base della ISTE, che non invasi di più. C'ha due strumenti grandi. C'ha il distorsore e praticamente il wattmetro, il rosmetro. E praticamente a fianco c'ha il canale e la frequenza. Ce l'aveva grande il frequenzimetro, quello che c'avevo io, c'aveva l'eco, io andavo a poco e così, il bip si poteva togliere, mettere, insomma, ne aveva poco di... e me l'ho venduto, quello già mi è dispiaciuto, quello pompava pure, c'aveva un mezzo watt, faceva da 2 watt in su. È perché te l'hai venduto allora, scallò. E avevo fatto un sacco di collegamenti pure in banda laterale con quello. Quello era bellissimo l'apparecchio. E l'ho venduto a un amico, l'ho venduto e cosa vuoi fare? E adesso non ne ho. E poi te ne vendi. E di quello me ne sono pentito, sì, quello pompava alla grande proprio. quando è così non apri più, non apro io, non apro io. Io questo qua, io tutti quelli che ho qua, sono qua, tutti sono qua, uno più bello dell'altro, non per dire perché sono i miei, ma sono tutti scelti. Lo so che c'hai apparecchi belli tu. Io ho il Primilenna Ove che è senza frequenzimetro, quello lì, in più è omologato, non ha batte, non ha canali, non ha nulla. E l'ho lasciato così infatti. Io lo so che si possono mettere canali e tutto, ma lo lascio così, così almeno rimane omologato. E boh. Questo che sto usando è omologato c'è. Questo che sto usando è la stazione base, in più c'ho anche il coso, le 3009 anch'io, omologato, omologato, omologato. E poi gli altri, vabbè, sono moloccani. Sì, infatti. Mi dispiace metterlo in macchina il 3009, infatti metto quello piccolino e boh, perché il 3009 mi piace un sacco, però mi duri l'uguri a punirlo in macchina, a parte che è un barrasone, è troppo grande, come cavolo si fa a metterlo in macchina quello, però quello lì va bene, ma quellino Condor lo mette in macchina. Va bene quello lì in macchina, perché è una bella radio, la radio, la radio. Anche se c'è il microfono normale, deve essere che come si dice, è amplificato il microfono. Ehi, come il mio, magari gli ha aumentato i watt, i canali, lui, capito, gli ha aumentato la LC e c'è di brutto. No, esce bene di per sé, anche quando l'hai messo tu, usciva meglio dell'amplificato, cazzo, usciva meglio il microfono normale che con l'amplificato. Ehi, infatti, è che è troppo pesante quel microfono, io ce l'hai pure tu, uguale, se no magari qualche volta già me l'avrei messo in macchina, ma lascio questo piccolino e boh, della Intec. Cammi Wentindì mi intendi, cammi Wentindì non mi intendi. Ma fugge, va bene come va bene. Ehi, se ti sto dicendo, stavo parlando con Gianfranco, con Giovanni, quando sono uscito in macchina, l'antenna funzionava alla grande. La stazionale è ricontrollata con le altre? No, negativo, non ho avuto tempo, perché alle 11 dovevo essere qui a misurarmi la pressione, quindi non sono salito a Piazza Lessegna a controllare, ma era già tarata l'antenna. Dovevo solo piazzarla sulla base magnetica e boh, io l'ho piazzata sulla base magnetica, una volta sono riuscito a pulirla dalla vernice per fare bene contatto e adesso è una bomba. Quando mi capita di salire a Piazza Lessegna, tanto il rosmetro ce l'ho per controllarla, me la controllo, ma è tarata, io non l'ho toccata l'antenna. Com'era Io l'altro giorno sono salito in Piazza Lessina, erano uno e due le stazionali, tutti i canali, l'ho portato a uno al massimo, ed era inchinato, stavo praticamente avvitando il PL, avevo le ginocchia in terra, no? È arrivato quello dell'acqua, dell'autoporto, adesso si mette a dare l'acqua con le bottiglie, a un certo punto mi sento le ginocchia bagnate, ma se non c'era tutto il rigagnolo dell'acqua stava arrivando sotto di me. Dimmi tu. Ma le cose che gli ho detto, si è spostato il subito, scusa, cazzo, mi vedi, sei arrivato dopo di me, ti metti più lontano, ti metti a fianco a me a rompere le balle, mi vedi che sto facendo lavoro. E infatti sono poco delicati questa gente. Ma niente, attento mio hermano, scusi l'isola della Sardegna. Oh, qui c'è due vasche, non esci, c'è apparecchio, per farlo uscire, bisognerebbe alzarli in vasche come erano prima, 4 vasche almeno, come era prima. Sì, infatti. L'altro giorno, quando è? Ieri o avanti ieri, ho parlato con uno, con un russo, in banda laterale, Santiago 9 mi arrivava in banda laterale, una bottenza ieri. Cava, No, io banda laterale ne uso molto poco, non ne uso quasi nulla. I DX di solito me li faccio in AM o in FM. Banda laterale non è che mi piace tanto, perché c'è la voce troppo gigiata. No, guarda che bisogna centrarli bene, quando li senti bene è come che siano in AM, non hai nessuna difficoltà. Addirittura questo era, parlano in inglese dove vado io, e quindi no, se non li senti bene è un casotto. No, io già li centro bene, ma quella modulazione rimane un po' strana sempre in banda laterale, non rimane limpida come in AM. E vabbè, comunque qualche volta già li ho fatti anche in banda laterale, ma poca roba, no, le banda laterale ne so poca. Tanto ci sono anche in AM, perché in banda laterale magari esce più forte, capito? Non si ricomprende nulla. E come va la lancetta, boom, sbatte da una parte all'altra. No, è altro che io li faccio solo in banda laterale. Figura. Capito? Li faccio solo così. Se l'altra volta sono stato più di un'ora parlando con uno del lago di Como, erano quelli del Covid, mi hanno mandato anche la QSL elettronica, mi hanno mandato, ma diluso veramente, e io li sentivo come in AM. Perché QSL ancora le stanno mandando? E solo che te le mandano di quelle elettroniche, sul computer ti arrivano, capito? Vabbè, ma te le puoi stampare dopo. Beh, certo. Vabbè, ma prima era diverso. A me mi mandavano dalla Germania, mi hanno mandato sotto calici di bicchieri, mi hanno mandato monete, ma no, queste cose qui non le mandavo più, era più bello prima. Infatti, già le mandavano prima, io ne avevo un sacco di quelle QSL, lo stesso. Io ce le ho ancora conservate. Mi hanno mandato un uomo che se tu lo giri ride, se lo giri dall'altra parte è triste. C'è una cosa allucinante, non ci avrei mai pensato potesse esistere una cosa del genere. È una bella QSL, è un uomo con i baffi, tu lo giri da una parte e ride, dall'altra parte è triste. È una cosa allucinante. L'ho fatto vedere anche a Franco California. E adesso anche i soldi mandavano, le monete. Cavolo. E adesso non mandano più nulla, besumivo. Io non ne sto facendo, no, non mi interessa più. Se no magari se gliela chiedo me la manda. Io non gliel'ho chiesto a quello che me l'ha mandato, me l'ha voluta mandare lui. Se no non ne avrei chiesto. Capito? Non ne sto chiedendo più QSL, se no ti vieni la casa di Gattiolini. Io ce n'ho una scatola di scarpe piena e una me l'aveva buttata nel vescere. Ce l'avevo da quando era a casa di mamma, fatti un gonfio. E qualcuna ne ho io e boh. E già sono cose ben ricordi, dai. Ne ho da tutte le parti, anche quella che ho fatto a Londra, dal quadrato, dalla macchina, cazzo, con l'antenna Sigma DX, un linearetto da 50 e il baracchino, da 50 watt. Il lineare io non ne uso mai, perché non mi interessa usare il lineare, capito? La cosa, se no è un macello, poi qui B150 uscivano saturi e non mi piaceva usarli. E allora uscivo, li faccio normale, con i batti della Parigi. Ah, chi esce bene sono gli RM Italy e quelli della CTE, 747, 767, se non danno qui i batti però escono bene perché le filali a MOSFET e non ti fanno distorcere. Naturalmente li devi dare sempre un'entrata che ti dicono loro, se tu gli dai di più d'entrata è normale che distorci. Però sono lineariti che diciamo sentite e vanno bene. Lo so. Luca me lo doveva vendere uno, però non si è più inteso. 747 macchina è una bomba, va benissimo. Infatti me lo volevo mettere io, però già esce bene ugualmente, tanto se... detto che me lo prendeva, ma non si è più sentito, capito? Perché gliel'ha dato Tornado, gliel'ha dato, uno ne ha venduto a Carlo e uno a Luca, lo telefonate se li aveva già venduti. Ah, ho capito. Vero, perché se li sta vendendo non ho capito, ma la stazione ce l'ha ancora? Non lo so. Se li ha venduti, cosa vuoi ti dica? Non sta più entrando neanche lui. Prima stava entrando, forse gli hanno rotto le scatole per l'antenna, amici, e allora ha preferito desistere. Allora l'antenna ci aveva tutto, aveva comprato sia l'antenna, i pali li avevo dati io, ci aveva le staffe, ci aveva tutto quanto per piazzarla, però dice che abitava da troppo poco tempo e un po' gli dava fastidio, lo voleva far scendere il filo del cavo nascosto, capito? Non voleva farlo vedere perché dice che se non risulta affacciata le dicono cosa. E poi deve essere, non si è più deciso a metterlo, non lo so se ci ha ripensato. Ma infatti, cosa vuoi che dica? Io ti stavo parlando tempo fa, poi ha smesso. Cosa vuoi ti dica? Già le mando un messaggino io per vedere perché non entra. Ma comunque quelli sono quelli buoni, dopo quelli del taggino mi sono mai piaciuti a me, perché bisognava regolare le bobine, il tettugante, l'entrata, l'uscita, insomma, volevano saputi toccare. E tutto spuria, quando gli tocchi le bobine mandano spuria un bel altro. Quelli a MOSFET ci vogliono, e boh. Sì, quello a MOSFET va sul sicuro, io lo usavo in macchina, quello lì, con la LAN 48 modificato, ragazzi, c'è una bomba. Perché a comprarli questi 747 non ce n'è? O se trovo uno di quelli della RM Italy mi compro uno di quelli. Ma quelli costano un bel. Ecco, ti stavo dicendo, la GBC non ne ha più. Non pensano. La Garughi Fuoco li dava 95 euro, mi pare, una cosa del genere, quando su internet costavano 60. Però un rifarraffa con la spesa di spedizione ti viene con tanto lime. Sì, vabbè. E poi ce n'è uno che è fatto uguale, identico al 747, che ce l'aveva Marco Conde, quello blu, non so se tu lo conosci. È uguale identico all'interno, è uguale uguale, dà la stessa carcassa, lo stesso circuito, eccetera. E quello della RM Italy è? Quello lì va bene, 100 watt mi pare anche quello lì. E in AM ne dà 50. In AM 50, no, troppo poco. Mi dava 100 in AM e 200 in banda laterale. E beh, allora è diverso dal 747. Perché in AM ne danno la metà. Uno da 100, vedi, in AM sarebbe di lusso. E così in banda laterale ne dà 200. Il 747 è così, da 80 watt, 90 watt. L'ho avuto io a casa. Ma io sapevo 50 watt in AM e 100 in banda laterale. No, Natalia, io ho il watt, ma l'ho sempre attaccato. Quando l'attaccavo si sentiva 80 watt, ti dava 80, 90, dipende dall'apparecchio che usavo. Se usavo un altro apparecchio me ne dava 100 più. Minchia. Se usavo, come si chiama, il 980, me ne dava 100, però quello lì pompava già di per sé lui. E andare, a me mi serviva mettermelo in macchina. Io ce l'avevo, l'ho venduto a Val. E cosa, 747? E allora, è quello che c'avevo in macchina, poi ho venduto sia l'apparato che quello lì. Tanto in macchina non ne dovevo più mettere. Poi chissà cosa mi è brincato in capo e l'ho messo con la magnetica. Dai, con la magnetica si può pulire tutto e via, però di volta devi fare un zaffa. E infatti, è che io non so dove mettermelo, quello piccolino. La zaffa non è manco la sua e viene male. Perché che sta facendo? È la tappa di questo ricevitorino, però è troppo corta, Emmy. Di larghezza ci sta, ma è troppo corto. Ah, ecco, non ce l'ha la sta. No, la sta faccia non ce l'ho. Ho capito. Non so che dirti, ma lo puoi mettere nel cassetto, nel cassetto anche senza staffa, io l'avevo messo senza staffa, gli avevo messo due stracci sotto per non muoversi, e fatto uscire dal cassetto, fatto il buco da dietro e fatto passare il filo. E adesso vedo se ci sta dentro il cassetto. È il 680, l'FM 680 della Intec, quello che c'ha quello spinotto brutto serio. Mamma mia, quelli come ti ritenesce, Natali, io ce l'avevo e praticamente come tiravo il capo, si staccava lo spinotto, di quegli spinotti che non vi sono più, va. No, non esce quello spinotto, va bene, però c'ha quello spinotto lì del microfono, c'ha il microfono suo originale che addirittura dietro l'ho aggiustato io, se no non lo potevi attaccare da nessuna parte. Ho capito, non so cosa dirti, io staff ne ho una solo ed è quella della colonnina, siccome la colonnina l'ho attaccata, invece che mettere la staffa l'ho attaccata così col mio adesivo, capito? Così sta ferma e non devo c'è bucaffa. Ho capito, io ne ho due qua colonnine. No, io c'ho quella con i filtri, però quella dell'Ala che è bellina. E anche io ce l'ho, ne ho due e c'hanno tutti e due i filtri. Questa qui che è bella grande la mia. E anche la mia. Aspetta, ti faccio vedere. Aspetta un attimo, Voggia. Avanti Cristian. È un po' quell'eco a bassa, che è un po' ripetitivo. Adesso bene va. Adesso va bene. Prima era molto abbastanza ripetitivo. Era comprensibile, proprio ripetitivo. Ecco, ecco. A voi Cristian. Era così. Adesso leggermente va bene. Da. Dopo già me lo regolo io. Sto provando un altro apparecchio base, da che ero un po' che non usavo, adesso lo faccio scaldare un po', ogni tanto li attacco là, per farli scaldare. No, questo qua è della Intec. Intec c'ha due strumenti, frequenzimetro e il canale a fianco, tutto blu. Sì, ne ho uno mio fratello anche. Ce l'ha? Insomma, sì, io l'ho visto uno simile. È grande, è una stazione base. Sì, sì, no, un base della Intec. Mi sa che è proprio quello lì, no, l'ho visto di sfuggita, però sai, è un po' uguale a quello. Il mio è quello a due strumenti, c'è anche da uno strumento solo. Beh, me lo volevo prendere, ma adesso vediamo cosa fare. Io lo sto prendendo questo qua, se ti interessa. Ma adesso non ho moneta disponibile, devo aspettare. Ma non sta lavorando più là? È un po' di sciatica e sono sotto cortisone. E quindi è dovuto mollare. Ma ragazzi, ho dovuto mollare, mi col lunedì sto scendo un ritorno anche dal medico per visitare, a vedere, avremo una cura specifica direttamente. Vabbè, non ce la facevi. Io sono bloccato. Ma ti riprende? Vabbè, che se mi riprende, poi non c'è problema. No, perché tu stavi sostenendo quello là, scusa, e diceva, ah, la giubilina fila che mi ha sostenuto e non mi viene neanche questo. E poi non ho problemi, guarda, dopo un lavoro ai campi da tennis, sono 60 ore la giornata, non ho problemi di lavoro. Già, va bene allora. Allora vai tranquillo, che io sono a posto. Sono tornato. Ma non è vero che c'è tornato. Sì. Alfa 1. Alfa 1. Ciao Cris. Poi avete un gridiamo. Tutto a posto, è da mettere a posto. Allora siamo in tre, dai. Guarda, due di vita la carina, lasciami. Vabbè, buon volume. Ciao Cris. Perché non ci ha tornato a massaggiarmi? Allora. Massaggiarmi adesso. Ottavevo. Vieni a casa, avete massaggi, vi faccio un po' di ruccio. Perché ci sono i centri massaggi? Non li hanno tutti? E cosa adesso io c'è per privato? Cosa RDS fanno uno scherzo, non so se l'avete mai sentito. Praticamente telefonano, chiamano la moglie di questo tipo che è d'accordo con loro. E le dice, dicono: signora, scusi, il suo marito ha dimenticato il telefono, deve venire a prenderlo. Come mio marito? Perché? Chi sta chiamando? Questo è il centro massaggi. Che tipo di massaggi? Facciamo tutti i massaggi. Massaggio pure finale. Chi già si incazza, c'è male un marito, neanche così. Lo scherzo, dai. Non è preso da niente, vai tranquillo, tu ne so che qui non gli schizzi. Vabbè, tutti ne fanno, ne fanno tutti, c'è la voglia, ci si fa. E vabbè, questo centro massaggio, io mi posso massaggiare la pioggia là. Centrone a Città Mercato, però andando verso Media World, dove ci sono le scale mobili, eccetera, sotto prima c'erano delle sedie che ti massaggiava. Ci sono ancora? E allora bisogna andare lì. Ma lo sai quanto sono belle? Ci metti un euro, ti fanno questi massaggi allucinanti. Io la poltrona già cadere, fa massaggio. Ce l'hai quella poltrona? Io sì. E beh, non la usi. Sempre la uso io, e il mio gatto. Al gatto pure la fai? Sì, anche il gatto c'è dei massaggi, eh. Vabbè, io ci avevo un macchinario preso dai cinesi, ma sembrava che ti passassero la mano. Faceva diversi tipi di massaggio, dava tipo scosse per i muscoli, faceva muovere di colpo i muscoli, gli dava la scossa, tac, e si muoveva. E io l'ho provato, io mi da me è uguale cosa, eh. Però faccio attenzione. Ci mettevano due file, mi fa, ma andava bene, funzionava un po' bene, ma dice che chi è malato di cuore non lo può fare. E a me me l'hai fatto provare un attesi, però. State sovrammodulando. Io dalle scariche al cuore, capito? Io vi saluto, ci sentiamo, ciao. Canto. Ciao Antonio. Ciao Antonio. A me me l'hai fatto provare lo stesso, già. Cosa? Che a me me l'hai fatto provare lo stesso, pure si fa chiamare, mi si fa male di rigori. Ma una volta non fa niente, tranquillo. Canto ogni cosa che mi dà zia. Ma sei contento? Gianni. Gianni. Non risponde, boh. Vai. Deve essere in ufficio, già capitolino. A me mi ha attaccato quegli elettro di roba di scossa e mi hanno dato. Chi c'è di altri cibi a scuola? Al sacro cuore, boh. Quanto fa uno sul tetto? Non lo so, al sacro cuore se ce n'è, cibi. Cibi c'era già anni prima, quando abitava dalla mamma. C'ero io, c'era tornato. Chi c'era? No, al sacro cuore non ce n'erano altri. Poi c'era via le Sicilia, c'era Luisito. Anche Andrea Oceano c'era. Tanto qui c'è Capicolino. Via. Chi c'era? Io, Luisito, e poi chi c'era lì vicino? Non mi ricordo che... Ah, c'era Ragus e Petrus, sì, che adesso mi sono ricordato, dove c'era il cinema Rex a fianco. C'era anche Andrea Oceano. Sì, tempo fa sì, anche Riserva c'era allora. Invece mi avrà detto, eh. Già lo so. No, c'è cioè, no, perché mi ha trattato, ho avuto la porta, la sono in casa, mi siamo tornato e abbiamo tornato, dai. Vabbè, comunque, ce n'erano pochi da sacro cuore, di più ce n'erano a latte dolce, latte dolce era tutto pieno da vero. Io adesso forse me metto anche, mi metto una piccola da sacro cuore, lo metto, molto probabile, fra un paio di mesi, e l'antenna normale a casa. L'antenna piccola a sacro cuore ti metti? Cosa ti metti? Che antenna? Oh, non lo so, adesso vedo l'antenna. Ah, fidati quella Venom che va bene, va bene. Quella lì è 5 ottavi, è piccolina, non rompe le scatole a nessuno perché è radiali curvi. No, ma intanto c'ho l'antenna TV nel terrazzino io. E la metto sopra l'antenna TV e sono tranquillo. Quanto costa la Venom? E quanto costa la Venom? Quanto costa il prezzo? 60. Non è che tanto. Non è tanto, 68, la cosa del genere, 60 giusto, guarda su internet, tu metti bene, non 5 ottavi. Mi sa che ne sono due, la metto, una a casa, giù in campagna, una qua la metto. Un buono invece non 5 ottavi, e ti da l'antenna. E dopo non devi manco registrarla né nulla, è già taratta, tu come la piazza di 1 e 1. Allora, mi sa che me lo metto anche nel strutturo di Sassari pure. Adesso vediamo, dai, siamo attivi con luce acqua e la arredo come ti comanda, forse me lo metterò. Sì, vabbè, dai. Vedi tu, vedi tu, vedi tu. Cava gava. Va bene, lo stesso, va stesso, va. Va bene, va bene. È una bella antenna quella. Quella voglio mettere a casa, qui in campagna. Eccola, ci metti un bel palo, la metti in alto. Guarda, un tetto ne ho io, un tetto enorme. Se sta faccio sul tetto, tengo a me, a te, a Claudio, a Luca, messi assieme, figurati. E al tetto? No, di peso. Ah, no, perché quella lì è un'antenna che va bene a tutte le parti, non ti ruba né spazio né nulla, perché è corta, corta. E ti dirò che rende bene, c'è detto Franco, arriva a tutte le parti. Fatemi, una cosa me la metto a casa, fra un paio di mesi me la metto adesso, metto le basi a casa, perché uso quelle palle, mi muto la macchina anche. Aspetta, chi è che ha detto chi sei? Avanti, avanti. Io sono già le doppio, e tu chi sei? Chi sei? Giovanni. Non riesco a capire chi sei. Io non sento neanche. Aspetta, non parlate, se no non capisco cosa dici. No? Tonino Cavasac, Tonino Cavasac. Ui. Questo. E allora 60 minuti. Ascoltando ci sta, via, orecchi di bue. Gianni, salutamelo, che non lo sento io. Beh, stanno mettendo la portata, per forza non lo sento. Non lo sento proprio, perché è basso basso, salutamelo. Fattoni, ti saluta Cristian, dai. Ti stavano mettendo la portata. Vabbè, ma fatti tutti. C'è sempre quello che fa queste cose, che non lascia mai parlare tranquillo gli altri. Ma ne ho bisogno di 100 malanni, di Aghisci. Va bene, ti aspettiamo. Eia. Ti saluta Natalino, ci sei? Natalino non risponde, vedevi se è maniera. E adesso stai dicendo, sono con radiale. Arrivi bene, si di radio arrivi basso. C'è Santiago 7, Radio 3, da. Che dov'è, lo sai? Eia, dove sento lì? Non me lo ricordo, Prima di Alghero, da. Non lo sento di radio io, vedo il segnale ma non sento di radio. A Olmedo, Infatti vedo il segnale, ma non lo sento di radio. Gappa. Sì, vabbè. Io già lo sento. Ianna, salutami da parte mia. E io come arrivo lì a Olmedo, tu lì? 1, 2, 3, 4, sono con due fatte, con quello piccolo. E vabbè, da Como. E guarda adesso. E da. Se ti metti magari il radiale, arrivi anche più forte tu. Ma la terra deve essere completa. La recensione fa anche la massa, e tutto grande, E lo diamo adesso per la massa. Se l'antenna non è completa è normale che renda di meno. Già non uscire che sta piovendo a me. Davvero? Devo uscire alle 8, devo uscire col cane. Che sta più avvicinando adesso? Se sta piovendo, vado sotto il porto di cazzi, io metto sotto il cane e piscia la fuga. Fai bene. E cosa devi fare? Se sta piovendo, non è che ti può bagnare. Adesso sto scegliendo di casa di mamma. Mi tempo di tempo essere a piovere. Tony e Cagliuzzi come stanno? Gaba. Andava. E quindi adesso stai usando il microfono normale, anzi ci vorrebbe un bel amplificato. Sì. In effetti è così. No, io già ti sento, dai. Magari qui siamo qualche macchina. Sì, io sono a Sant'Orso, la barra mobile. A Sant'Orso, la crisi è la barra mobile, è probabile che per quello. Ma io già ti sento, a Sant'Orso base ti sento. Con l'antenna in gomma piccolina. Cosa? Con l'antenna in gomma piccolina. Cristian, ci fa vedere un altro Torino, si compra di lungo. Scusatemi allora. Vai Torino. Tu lo senti a Cristian? Lui come mai non ti come sente allora? Cristian, lui ti sente a te. Ti sente? Io sono venuto a QRM. Però ha detto che li manchi a volte, perché c'è il movimento. Sì, adesso sono in movimento. Cappa. Ma forse si sente fra un po' che sono buddi, lo sento. Eia. No, io già lo sento abbastanza bene. Santiago 7, la radio però non è forte, dai. Però già si sente, mancata di QRM si sente. A Trinza, a Titolino. Aspetta già un attimino. Gianni, ci sei? Io già ci sono. Io sono quasi sulla Trinza. manda a casa? Va bene. Torna a casa lì. Prenditi un occhio, ti bascia. Io ho tutti i giorni così, non è che abbia problemi, oramai ci sto convivendo con i dolori. Allora, mi sono fatto 12 punti di vigli, diclofen e muscoli, e non ho fatto neanche tutto il lavato di canto. E sto prendendo cortisone, sono stato a cortisone adesso. Cortisone ti gonfia, ti fa di nuda. Stavo dicendo. Ma non è che c'è l'ernia del disco? No, ne ho due. Allora basta. Ne ho due con la sciatica, che basta? Allora l'ernia del disco che dà più problemi della sciatica. Vabbè, la sciatica è micidiale, anche a me a volte mi veniva, adesso non mi sta più valendo, a volte mi veniva questo dolore allucinante che paralizzava tutta la cuscia. E io ho detto la gamba, non si può muoverla neanche quasi. Dalla coscia tutto il femore mi prende, dalla coscia tutto il femore. E si conferma? Lo so che è così, è micidiale. Basta uno sforzo. A me una volta di mattina sono andato subito a alzare una pedala di latte, col traspal, come stavo pompando, mi sono rimasto con la schiena bloccata. E ti capisco cosa vuol dire, è un pedalone di merda, fila. È molto fastidioso. È doloroso pure, Toni, avanti. Ciao Nicolò, mi ascolti adesso? Prova. 1, 2, 3, prova e prova. Con questi qui, praticamente la lancetta sta andando e torna. Adesso il radio si è più forte. Ma che mi sono messo sotto a te? Cos'è? Hai attaccato qualcosa? Ma cosa attacco qua? Perché mi chiedi aumentato? No, segnale, non riesco a capirlo perché balla la lancetta, balla come se fosse un movimento. Non lo so perché fa qui, prima non stava a ballare, ma prova a essere come prima. Sembra che c'è banda laterale, la lancetta balla, io non lo so se lo fa solo da me o se lo fa anche dagli altri. Lo fa anche da me. Cosa? Lo fa anche il mio digitale, il vero, lo fa anche nel digitale. Sembra che sei come quando c'è banda laterale, che la lancetta balla, mi fa così. Va su e giù come fa. Prova a schiacciare se sta a parlare, Allora, praticamente come tu parli è uno di Santiago, poi aumenta, poi sale a 7, 8, capito? Che cosa stai toccando? Niente già, solo il microfono. Il microfono, sento se Santiago sale 6, è strano, i picchi mi c'ha dei picchi allucinanti. Sono picchi di modulazione. Perché se lo lasci fermo Santiago non sale quasi. Ehi, sta a picchi di modulazione. Adesso ha fatto la pernacchia, chi è? Non siamo sul 23, siamo sul 10. Adesso già ti sento, va. Ho alzato un po' il volume, ma già ti sento. Ma c'ha difetto il microfono. Eia, acciuga la vinca. Avanti, ciao Toni, ci sentiamo. Avanti Cristian. Con questo microfono lo stavo conoscendo. Vabbè Cristian, e adesso? No, già ti sento, però più basso, va. Cristian, io adesso sto uscendo col DM1000, come va? È chiara la modulazione, o è impastata come quella che avevi? Perché mi serviva la carcassa. Portamela a me che te lo controllo io. Apro il mio, lo controllo, dove lo salvo, K. Quello te lo posso salvare, che a me i fili non ne ho di fili, adesso. Quei fili non servono un cavolo, sono duri e si spezzano, si staccano subito quei fili, sono una baranuia. Avanti, chi è? Che è avanti? Avanti chi è chiamato? Cava. Beh, io provo a girare a vedere se c'è qualcuno sul 23, dai, ne ho un po'. Non venisci un inoghi. Ciao Cristian, se vuoi venire passa anche tu là, dai.